Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Bentornati su Basement Records per questo sabato sera su Radio Wombat. Torna la trasmissione fantasma per eccellenza di Radio Wombat, con i suoi vinili riscoperti e ritrovati dalle varie cantine, dai vari traslochi, da tutte le varie ed eventuali, basta che siano vinili che ritornano a noi dalla notte dei tempi, anche se non è la notte dei tempi, ma comunque erano gli anni 60, sì, i favolosi anni 60. Ma perché i favolosi anni 60, in questo caso perché siamo persone molto fortunate e ritroviamo tutti i dischi di quegli anni lì, ma dai jukebox, specialmente dai penso jukebox. Da quelli raccattati, l'avevamo già detto l'altra volta, nei jukebox dal mio babbo in sua propria persona. Ma prima probabilmente andava parecchio questa cosa dei jukebox, perché anche nella precedente edizione di Basement Records la maggior parte dei 45 erano tutti con scritto sopra vietata la vendita, esclusiva riproduzione per jukebox. Perché poi quando hanno dismesso i jukebox, che è arrivato, cioè poi alla fine poco, li davano via così. E poi anche i jukebox li consumavano e quindi poi te li davano dietro a 4 lire. Se no non mi spiego perché mio babbo ce li abbia. Comunque questo è il secondo lotto, eh? È il secondo lotto della collezione personale del mio papà. Esatto. Papà è nordico. Infatti, questo è, ribadiamo, è il secondo lotto di questo nuovo tesoretto trovato. Certo, perché la provenienza è torinese. Anche, certificata. Ci arrivano anche dall'estero. Dal freddo nord. Dal freddo nord.

abbastanza provato dalle intemperie del tempo questo Smoke Gets in Your Eyes di Ray Conniff. Sì, farlo anche girare senza centrino non aiuta comunque. Però ha dato al tutto un suono un po' svirgolato. Secondo me gli ha dato quelle... Lo potremmo richiamare Wombat Psychedelic Remix, secondo me, questa versione. Bellissimo. Qua. Guarda come ci salviamo sempre in corner. Bellissimo. Questo era il Wombat Psychedelic Remix di Smoke Gets in Your Eyes di Ray Conniff, ma a parte le facezie che stiamo dicendo, comunque è bene un attimo introdurre questo disco, perché Smoke Gets in Your Eyes è uno standard degli anni 30 scritto dal compositore Jerome Kern per la sua operetta del 1933 intitolata Roberta. E tra l'altro poi è diventata famosa perché nel 1935, nella versione di Irene Dunne, è stata portata al cinema con il suo adattamento cinematografico, appunto con Smoke Gets in Your Eyes, che è stato un film con niente poco di meno che Fred Astaire, Ginger Rogers e Randolph Scott. Che storia, pensa un po' te. E io non mica l'ho mai visto, neanche io, a dirci la verità, guardandoci negli occhi, neanche io. Però ha avuto tantissime versioni questa Smoke Gets in Your Eyes. Ma io me lo ricordo in American Graffiti, è possibile? Sì, è estremamente probabile. Perché avevo le due cassettine di American Graffiti e mi ricordo che c'era Smoke Gets in Your Eyes. Sì, perché poi tra l'altro è stata rifatta da veramente tantissimi gruppi, e la cover più famosa di tutti, che poi è finita anche per diverse settimane al numero uno della classifica americana, è quella del 1958 del famosissimo gruppo vocale nero rhythm and blues dei Flatters. Forse è quella che c'è proprio in American Graffiti. È estremamente probabile, infatti. Riindagheremo. E ho scoperto che il molleggiato Adriano Celentano ne ha rifatta una cover in italiano per il suo film degli anni 80, Lui è peggio di me. Ma pensa, questa perla della cinematografia anni 80. Sì, l'ha rifatta anche... Chi c'era? C'era Pozzetto in Lui è peggio di me? Non me lo ricordo, però ci sta. Non è uno dei film proprio rimasti non nella è un tuo storia film cult. Dell'Adriano nazionale, ecco. Ah, io mi ricordo solo Bingo Bongo suo. Ma anche il tipo di campagna lì. Ma quello era la canzone, ha fatto pure il film? Sì, che c'era. Sì, buono, davvero. C'era Ornella Muti, mi sembra. Io non so niente. Poi stiamo andando in un'altra trasmissione, quella sulle colonne sonore dei film. Sacco di asino. Ci stiamo divagando, entrando in Coming Song. E tra l'altro, un saluto ai conduttori di Coming Song. E vabbè, Ray Conniff era un compositore e un direttore d'orchestra americano che ha rifatto un sacco di canzoni, ritrasformandole in diciamo in musiche, come si definiscono, easy listening, no? Facile da ammettere. Ha avuto un sacco di di successi con le sue cover, tra l'altro. Ha collaborato anche con Don Cherry e diversi altri grandi artisti come Johnny Ray, come Johnny Mathis e Martin Robbins. Insomma, ci ha avuto un discreto successo anche nel suo ambito pop il nostro caro Ray Conniff. Che storia, io non sapevo sempre niente, non sapevo niente. Te hai portato i dischi? Io sì, io portavo solo i dischi, ma a me non so niente, no? Ti sembra poco? Però intanto sul prossimo che mettiamo, anche te che hai studiato, anche te non sai niente. Allora, il prossimo disco è un po' una perla rara, da quanto mi è riuscito di capire, perché non si riesce a trovare, non so, almeno io non sono riuscito a trovare informazioni su questi The Portraits, che presumo essere forse neanche una come si dice, One Hit Wonder, perché non credo che abbiano avuto neanche un brano di successo, Sarà stato uno però. di quelli che faceva 45 giri e spariva. Sì, Uno di quelli... però. Anche mio babbo suonava in un gruppo e anche lui mi ha detto che hanno fatto un 45 giri che è Sì. stato mandato in Inghilterra. Però esso poi È scomparso, ce ne saranno magari ce l'ha 50 qualche rarissime copie. collezionista e, vale, e ora varrà delle cifre Impressionante. incredibili e magari tuo padre neanche lo sa. Ma neanch'io, quindi nessuno di noi lo sa. Potresti essere estremamente fiero perché un giorno potresti scoprire qual era il titolo della canzone, il nome del gruppo di tuo padre e fare una ricerca e Oh, ma glielo chiedo, che la prima band, volta lo veramente. chiamo, glielo chiedo, la prossima volta Bravo. gli mettiamo anche il gruppo del mio papà. Esatto. Guardiamo se lo Glielo faccio troviamo. canticchiare perché secondo me non si troverà assolutamente più Manderemo niente. la registrazione sonora del babbo di Ginox che ci reinterpreterà i suoi successi giovanili. Però andiamo a questi The Portraits con Yo-Yo Girl, disco del 1961 in puro stile vocale, pop rock di quegli anni, un 45 molto sbarazzino lo definirei. Sì, la musica è sbarazzina E e facciamolo tanto, ascoltare ai sì, tanto non nostri. sappiamo che dire, quindi Dai, pronti, via. sentitevi The Portraits. You call me yo-yo girl. Questa era Yo-Yo Girl dei The Portraits. Se l'ha detto che era sbarazzina, questa. Sentite Di com'era brutto, di brutto. Poi Bubblegum. iniziava tutto quello che non si sa se è il nostro giradischi o se era proprio un effetto del, cioè l'inizio era così. Ma comunque anche se non c'era nella registrazione ci stava proprio bene, no? Era bellissimo. Sì. Decisamente. E sempre che questo è Wombat Remix. Sempre Wombat Remix, però sono nella parte iniziale per non perdere tutto il gusto dell'originale. Certo, è Diciamo un remix fatto a modo. più che un remix, una re-edit, dai. Bellissimo. Una re-edit. Intro riedit. Wombat re-edit. Ne stiamo sparando grosse stasera, eh? Sì, perché dobbiamo prendere tempo tra un pezzo e l'altro per cambiare Stiamo 40 giri. temporeggiando perché c'è ormai. Lo potremmo definire quasi un ospite fisso della nuova edizione di Basement E non li ho Records. finiti, eh? Cioè c'è anche per il prossimo lotto. Gli piaceva, Perez Evidentemente sì, Prado evidentemente a sì. Babbo Sì, Ginox. sì, sì. Perché ora abbiamo questa doppietta del 1958 di Perez Prado, che vi voglio ricordare è uno dei più grandi compositori e direttori d'orchestra cubani, anche se no, non è entrato in Buena Vista Social Club, però è stato veramente uno dei grandi della musica cubana degli anni 30, 40 e 50. E queste appunto sono due composizioni del 1958 e la prima è Why Wait, e appunto Perez Prado è considerato il re del mambo, no? Ha rifatto praticamente quasi tutti i grandi successi della musica occidentale in stile latinoamericano, in stile mambeggiante, salseggiante, l'ha rifatte. Ha reinterpretato un po' tutti i grandi successi dell'epoca, dandogli un tocco proprio tutto suo. Basti ricordare, appunto, fra i grandissimi successi composti e diretti da Perez Prado, penso basti ricordare anche solo La Cucaracha, che è scritta da Io me Perez. la ricordo. La cucaracha, vabbè, te la ricorderai. Me la ricordo La perché cucaracha. stava in qualche cartone animato della Walt Disney. In tantissimi, l'hanno usata, penso, per qualsiasi cosa. Ma io figlio della rimozione, mica le Certo. conosco cioè io li conosco dai cartoni animati pessimi del Mambo. collaboratore della CIA Walt Disney. Segnale tutto, Ma devo mettere Why Wait, vero? Perché io avevo messo S Patricia. No, no, partiamo con Why Wait, che Ho rovinato tutto? teniamoci la bomba per dopo, Ok, quindi ho no? rovinato tutto, era una sorpresa. No, vabbè, tanto i nostri ascoltatori più attenti magari se lo potevano immaginare che quella di dopo del 1958 poteva essere Patricia. I più attenti e i più grandi conoscitori del mambo, del twist e di tutti Cioè, ce questi n'abbiamo qualcuno? ritmi, Abbiamo gente chi lo così sa, dotta che ci ascolta? tra la E io mi nostra vergogno a grandissima parlare allora. audience, Venite voi a fare la secondo. trasmissione, scusate, lasciate noi due qua, Io capito? ho esageratamente fiducia nella nostra audience, secondo me ci sono, al di là dell'etere ci sono persone con una certa cultura musicale e se non ce l'hanno gliela facciamo noi, siamo qua apposta, voglio dire, no? E Comunque. quindi ascoltiamoci il Re del Mambo con Why Wait del 1958, Radio Wombat. Thank you. appunto era Why Wait del 1958 di Perez Prado, tutti pezzi molto ballabili, tutti pezzi per far ballare le balere degli anni 50. Io infatti mi stavo agitando tantissimo qua. Io che sono ballerino, come fai a rimanere cioè, fermo? Tutta la regia era in subbuglio. Come fai a rimanere fermo con se non Perez vuoi morire di freddo ti devi muovere. Ma dai, da noi in Siberia è così. Ma mi sembra che la wombat stufa stia facendo egregiamente il suo lavoro, dai. E sentiamoci anche la bomba di ma Perez. Ma noi piace Prado. Far credere che trasmettiamo dal freddo, della tundra siberiana. Dalla caverna di Vladivostok. E adesso sentiamoci la bomba. Patricia Perez Prado. Patricia, l'avrete riconosciuto sicuramente questo leitmotiv di questa canzone famosissima. Sicuramente la ricorderete, che ne so, per la scena dello striptease della Dolce Vita di Federico Fellini. Forse sì, quello l'ho visto. Dai. Quello ce l'ho. Dai, quello magari era quella che poteva ricordare più di tutti. Ma è stato veramente un pezzo saccheggiato sia dal cinema che dalla televisione. Basti ricordare che è stata usata come sottofondo per la scena del party in piscina nel film del 1969 Goodbye Columbus. Non l'ho visto. Neanche io, andremo ovvieremo a questa lacuna della filmografia. Io cerco di solo la scena del party in piscina. No, lo striptease me lo ricordo, quella del party in piscina no, cerco solo quella. Però. Questa magari quest'altra te la puoi ricordare, perché è stata usata anche da Matt Groening nell'episodio Some Enchanted Evening della prima serie dei Simpson. Beh, senz'altro l'ho visto, ora ricordare però è una parola grossa. La prima serie sta parlando del 1990, eh? Beh, io ci avevo già 15 anni. No, vabbè, anch'io ce ne avevo svariati, però... Diciamo un paio d'anni sono passati, visto che non mi ricordo neanche che ho mangiato stamattina sì. A colazione. In effetti sì. Però se sei stato qualche anno in Inghilterra, nella terra d'Albione, Questo pezzo è stato usato per diverso tempo, dal 96 al 2003, anche come accompagnamento dello spot pubblicitario, per la Royal Mail. Boh. Io qualche volta quando ricevo i pacchi con i dischi dall'Inghilterra c'è scritto Royal Mail. Sì, però è l'unico rapporto che ho mai avuto con la Royal Mail. E l'hanno usato anche per la pubblicità fino al 2003. Pensa se. Gli piaceva. Sono 7 anni. Già passato svariato tempo, sì. E andiamo avanti con un'altra doppietta di questi. Questa è un'altra chicca. Questa è decisamente un'altra chicca, perché stiamo parlando degli Islanders, degli isolani. Questo gruppo abbastanza misconosciuto, anzi lo potrei definire proprio sconosciuto, della fine degli anni 50. E come potrete a breve sentire, avevano veramente un parecchio di western. E si potrebbe anche quasi ricollegare ai grandi classici delle colonne sonore western, degli spaghetti western. Zack, Salto Mortale. Morricone. Salto Mortale. Esatto, Salto Mortale, però il buon Ennio Morricone, la prima colonna sonora per un film western, esattamente per quello di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, la scriverà solo nel 1964. Quindi, e di nuovo che si ruba il mestiere a Coming Soon. Questi i dischi che abbiamo. Toccherà fare una puntata speciale insieme a loro. Chiediamo venia. E. Appunto, lo farà solo 5 anni dopo Ennio Morricone per un pugno di dollari, appunto, di Sergio Leone. E questa era questi The Islanders sono la creatura del chitarrista Randy Starr e di Frank Mathis all'accordion. Era questa coppia che poi nel 1960 faranno uscire il loro unico disco, The Enchanted Sound of the Islanders. Boh, se lo troviamo vi facciamo sentire anche quello. Esatto, intanto facciamogli sentire Blue Rain. Thank you. questi appunto erano i The Islanders. Fischiettava alla fine, eh? E fischiettava, ma faceva proprio western, proprio tanto parecchio una cifra, eh? No? Sì, cavolo. Sembrava proprio di essere in mezzo a una delle scene degli spaghetti western con Clint Eastwood da giovane, con la sua espressione, con le sue due espressioni, una con il cappello e una senza, come diceva Sergio Leone, in un modo direi non proprio per fargli un complimento. Però questa era la leggenda. Se lo pigliava sempre come attore. Evidentemente proprio sputava sul piatto dove mangiava. Sì. Però insomma è entrata abbastanza nella storia anche per... Forse gli piaceva proprio il fatto che c'aveva solo due espressioni. Per caratterizzare bene il suo personaggio due espressioni. Quindi non monoespressivo ma biespressivo. Sì, sì, poi almeno evidentemente funzionava benissimo così. E sentiamoci appunto anche questo secondo lato, sempre qui, molto western. Il centrino mi è entrato così e così, anche quindi potrebbe avere gli effetti un po', svarionanti. Sì. Sì, sì, sentiamo come viene fuori. E questa è Tornado, sempre di Islanders. Sempre molto western qui. Oh, ci si è fatta comunque, ha girato tutto. Perfetto, è andata alla grande direi. Sì, sì, il Wombat Remix questa volta non si sentiva tanto. Non abbiamo remixato a dovere, ma è andata bene così, dai. Ora ci abbiamo una chicca. E ora abbiamo un'altra chicca, perché abbiamo questo 45 di Gastone Parigi e il suo quintetto, che... andando un po' a indagare su, non conoscendolo, sono andato un po' a indagare su chi fosse questo Gastone Parigi. Sapevo solo che era un trombettista italiano e inizialmente, ti devo dire la verità, mi sono trovato abbastanza in difficoltà, perché sui normali canali di ricerca di Gastone Parigi non è rimasta traccia. Non era rimasta traccia, infatti. Sì, a parte le sue canzoni, perché ci sono, sì, magari sul tubo si trovano le sue canzoni, però di note biografiche o di altri dettagli sulla vita di questo trombettista inizialmente non ero riuscito a trovare un granché, tranne poi imbattermi. Hai sfogliato i giornali scandalistici. In un certo senso non proprio, perché ho ritrovato su un blog uno stralcio di una ricerca, diciamo, tra virgolette, etnomusicologica. sulla vita dei nightclub nell'Italia degli anni 50. E ho scoperto che Gastone Parigi, insieme a un altro fiorentino, come appunto come Gastone Parigi era fiorentino, e un altro famosissimo cantante di night, sempre fiorentino, era Franco Rosselli, ho scoperto appunto che erano due famosissimi cantanti di night degli anni 50. E mentre Franco Rosselli, che era proprio il classico fiorentino, sempre con la lingua pronta e la grande indole comunicativa, che però era più specializzato nelle parodie e nella musica latina, invece appunto Gastone Parigi era proprio un trombettista, anche se non particolarmente dotato, e comunque un vero animale da palcoscenico, un vero animale da night, che, come dicevano appunto le cronache del tempo, il night non era solo un luogo di perdizione come ce lo potremmo immaginare adesso, ma prima delle due di notte era anche un luogo dove si poteva passare una bella serata bevendo e ascoltando dell'ottima musica dal vivo, perché c'erano dei fior fiori di musicisti a suonare nei night più famosi delle varie città. Appunto. E dopo le due? E dopo le due, diciamolo dopo questo primo pezzo. Okay. E andiamo a scoprire il lato oscuro della vita dei night, il lato dell'Italia B. Degli anni 50. Il lato B. Esattamente. And now I sit to one and two, just rolling no more. I'm as a mother, really, I'm becoming a bore. Cause now I've discovered that there's now to sing. I get you on my kick, sing a big loud ring. I got a hula hoop. I got a hula hoop. I know the hoopa hula hoopa hula hoopa hula hula all the time. Hula, hula, all the time. Early in the morning, what a time they hula. Walking down the sea, on the white school. The gypsy had a salmon, they had a hack in the fool. They really hunt the dry, cause they're really, really cool. A hula hoop, I got a hula hoop. I got a hoopa hula hoopa hula hoopa hula hula all the time. E questa era Hoopa Hula di Gastone Parigi e il suo quintetto, del trombettista Gastone Parigi. E come andremo a vedere a breve, trombettista di nome di fatto, a quanto pare, perché appunto la domanda che mi stavi facendo, che mi stavi ponendo, buon Ginox, era che sì, sicuramente i night erano dei locali dove andare a prendersi una bevuta e ascoltare buona musica, però diciamo che dopo le due la notte la clientela cambiava un attimo. E diciamo nei night c'era la clientela del lato B, lato c'era A e lato B. La clientela del lato B, che in questo caso appunto il lato B è You Took My Love, non per niente, perché infatti, come vi stavo dicendo, ora non so se gli eredi e i come si dice, e i parenti di Gastone Parigi mi denunceranno, ma da no, ma quanto noi riportiamo da fonti, riportiamo fonti da trovate quanto, sull'internet. Da quanto trovato, vi posso anche linkare tutte le varie informazioni che ho trovato al riguardo. A quanto pare Gastone Parigi faceva il tutto esaurito, perché una volta finito di suonare sul palco, poi andava a suonare anche nel retropalco quando le signore arrotondare. Desideravano, e appunto arrotondava lo stipendio da musicista, anche offrendo servizi extra alle signore compiacenti, diciamo. Ah, e doveva pagare il mutuo. Vedrai. Ah, anche negli anni 50 c'era il mutuo, c'era da pagare la casa, devi pagare il frigorifero, la bolletta, appunto, la lavatrice. Quando uno poi rimaneva nel night, anche dopo il famoso rintocco delle due di notte, che nella favola di Biancaneve era mezzanotte, ma nella favola dei night italiani degli anni 50 un po' più là. Era un po' più là, erano le due, la situazione un attimo cambiava e si faceva un attimino più torbida. Ma pensa se cosa succedeva nei night. Torbida, divertente, e peccaminosa, e super hot, direi. E Gastone Parigi stava lì. E Gastone Parigi era proprio lì. Era lì, mezzo, protagonista. E le cronache raccontano appunto di questi... di questi harem di donzelle che lo aspettavano in ogni sua tappa... E per questo lui ha scritto You Took My Love. You Took My, che probabilmente era semplicemente una cover del tempo, perché non lo so se l'aveva scritta Gastone Parigi. Ah, dici di no, eh? Ci sta di no, però ci sta... Vabbè, la eseguiva con il suo quintetto. Esatto, la eseguiva con il suo quintetto, e visto anche le sue attitudini, si può dire che era uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, dai. È un lento. Mi sembra di ricordare sia un lento. Canzone d'amore. La fase d'approccio ci certo, vuole certo. Anche per un viver come giusto. Gastone Parigi. Certo. Che si può andare lì e, come si dice, oh ciao, e gli metti la lingua in bocca. No, cioè, no, è maleducazione. Ma sembra, senza nemmeno un attimo presentarsi, mi sembra proprio sconveniente. E allora You Took My Love. You Took My Love. You took my wah-wah-wah-wah-wah-wah, you took my love. You took my love. You took my love. You took my heart. You took my heart. You went away. You went away. Right from the start. Right from the start. You pulled me quick. You pulled me quick. And you took all of me. You took my wah-wah-wah-wah-wah-wah, you took my love. You took my lips. You took my lips. You took my arms. You took my arms. I was bewitched. I was bewitched. By all your charms. By all your charms. And to this day. And to this day. You took my prayer for right. You took my wah-wah-wah-wah-wah-wah, you took my love. With open doors. Wah, wah. My heart I shook. Wah, wah, wah, wah, wah. To people love. Wah, wah, wah, wah, wah. Believe and pray. I love just you. Wah, wah. I want you to. Wah, wah, wah, wah. You want me what? Wah, wah, wah, wah. And want to stay. But now I feel. But now I feel. What is not use? What is not use? For what I took. For what I do. Will just abuse. Will just abuse. You took my pride. You took my pride. And took me far to right. You took my wah wah wah wah wah wah. You took my love. You took my love. You took my love. You took my love. But now I feel. But now I feel. What is not is. What is not you. All what I took. All what I took. away just to abuse it. You took my pride, you took my pride, and took me for to right. You took my wah, you took my love. E questo era il cavallo, uno dei cavalli di battaglia del nostro Gastone Parigi. Che non era un pezzo lento, non so dove me lo sono visto, era un pezzo lento. A pensarci, dai, questo era il massimo del lento che poteva concepire Gastone Parigi. Perché nei night faceva ballare. È perché era in pompa, no? È giusto, è giusto. Non è che poteva mosciare al pubblico, è vero. Sei in un night, non è che sei in Valeria quando c'è da fare il ballo di mattone. Noi non avevamo pensato a questa eventualità, capito? Era un po' swing, visto come era, cioè, era swingeggiante, era cic-cic-cic-cic. Sempre danzereccio, però diciamo un po' un lento alla Gastone Parigi, dai. E sto pezzo qua, il prossimo che mettiamo, sarà un lento? Secondo me no. Secondo te no? Potrebbe essere... Io conosco lui. Di lei so un po' poco, solo per sentito dire. Però in questo momento non ho appigli per... Beh, finora abbiamo solo detto che sono lui, una lei e un lui. Esatto. Che nello specifico sono Julie Driscoll. E Brian Auger, che lui lo conosco perché l'ho già trattato appunto nella precedente saga di Basement Records, e so che era appunto un grande, grandissimo armonicista. Aveva la band, l'organo elettrico, e la sua band di accompagnamento erano i The Trinity, appunto. E quindi la voce sarà Julie Driscoll. La voce sicuramente. Questo per far capire che non l'abbiamo ascoltato. La sto voce brano, sicuramente. Ci sono le scommesse: sarà lento, sarà veloce. Che succederà? Vi sapremmo dire anche chi vincerà su queste scommesse. E comunque, secondo me, Julie Driscoll ha la voce sicuramente. Quello sicuro. E Brian Auger, direi, all'organo. I Trinity dietro, perché Trinity comunque loro hanno un nome collettivo. A fare il resto del lavoro. Va bene. Ma sentiamoci appunto questa I'm a Lonesome Hobo. Hobo. Che storia. Gli hobo erano i, sai, vero? Mi sa una roba da country western. Erano i, ora, i senza tetto, ma non è vero che neanche erano senza tetto, perché gli hobo lo facevano proprio perché credevano in questo senso di libertà. Erano quelli che viaggiavano, quelli che saltavano sui treni. Esattamente. Che storia. In lungo e in largo per l'America, dentro i vagoni dei treni merci. Ma pensa che brano di chiusura proprio poetico che abbiamo messo. Che si è trovato, eh? Pensa se. Sempre tutto a caso. Via, il caso ci aiuta. Vado? Sì. Il caso aiuta gli audaci, E gli hobo. E gli hobos. I'm trying. Partiamo da qua per fare pubblica ammenda per la nostra incredibile ignoranza. Che schifo. Mamma mia, che vergogna. Cioè prima abbiamo scritto male Julie Driscoll, pensavamo si chiamasse Judy e per questo non riuscivamo a trovarla su Wikipedia e questo ci ha mandato nel pallone. Esatto. Capito? Poi abbiamo scritto giusto, abbiamo scoperto che era famosissima e solo noi due non la conoscevamo, ma non solo, che abbiamo fatto ascoltare un lato bellissimo, ma dall'altro lato ci abbiamo una super hit. Esatto, è stato il grande successo di Julie Driscoll e dei Brian Auger and The Trinity. Perché per un periodo è stata la cantante appunto dei Brian Auger and the Trinity e appunto oltre a essere cantante ha rifatto versioni di grandi successi di Bob Dylan, di Donovan, anche ad esempio I'm a Believer dei Monkees, ha cantato insieme a Long John Baldry e anche insieme a Rod Stewart, insomma una cioè la conoscevano tutti meno noi due che non sapevamo chi è. Veramente famosissima e poi ha avuto anche una fulgida carriera come cinematografica e noi anche lì niente, e noi anche lì zero completo, mamma mia, cioè andremo via da Wombat veramente con la testa murata nella cenere. Ma perché questo stasera disco neanche lo dovevamo mettere, capito? L'abbiamo deciso di metterlo alla fine, è stata una sorpresa, un ritrovamento dell'ultimo minuto e non c'eravamo, siamo rimasti un po' totalmente spiazzati, no? Brian Auger si sapeva chi era, anche i The Trinity, sì. Però Julie Driscoll niente, vabbè, ora lo sappiamo, ci scusiamo e facciamo ammenda facendovi ascoltare anche l'altro lato, con la hit. Grandissimo pezzo di femmina, mi sembra, vedo qua una foto del 1968, un cappellino molto bello. Ma anche io mi devo togliere il cappello in questo caso e rendere omaggio alla Scusando, Driscoll con la testa sotto i vostri piedi proprio perché abbiamo sbagliato, vergogna. Ma vedo che nel 74 addirittura ha anche cantato con Robert Wyatt, vedo delle collaborazioni anche con Carla Bley, grandissima compositrice, famosissima compositrice jazz, ma tutt'oggi una delle più grandi della seconda parte degli anni 50. In una delle prossime puntate faremo un omaggio a Julie Driscoll per chiedergli ufficialmente scusa. Per chiedere veramente scusa a Giulio Driscoll e anche a voi dotti di Basement Records, e sentiamoci questo successo, This Wheels on Fire, di Julie Driscoll con Brian Auger and The Trinity. If your memory serves you well, we were gonna meet again anyway. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. Questo era appunto il cavallo di battaglia di Julie Driscoll con Brian Auger and The Trinity, This Wheels on Fire, grande successo, tra l'altro da milioni di copie a quanto abbiamo letto, però Noi sempre prima, niente. no, poi l'abbiamo saputo con ritardo, dai. Oh. Vabbè, basta fare Comunque ci è pubblicamente. arrivata Ah, una mentre velina. sì, mentre eravamo qua, la Una nostra velina staffetta finale. partigiana è arrivata al freddo e al gelo per consegnarci questo cablogramma. Io tosto vado a leggere. Ci sarà martedì 12 alle ore 21 all'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele 2 a Firenze. Meglio Sì, specificare, non si sa mai poi chissà dove specifichiamo. finite. Un'assemblea pubblica per essenzialmente parlare di una cosa che è stata indetta di già, che è un corteo antifascista per sabato 16 dicembre alle ore 15 in piazza San Jacopino, indetto dal coordinamento Firenze Antifascista. E quindi vi invitiamo, Non insomma, a mancate se vi freme ricordare e vi queste due dovrebbe date. fremere, eh. vi invitiamo a ricordare queste due date e le ripetiamo: sono martedì 12 dicembre per l'assemblea l'SMS di Rifredi alle ore 21 e poi soprattutto il corteo 16 dicembre ore 15 piazza San Jacopino. Il corteo, voglio ricordare il corteo fatto per commemorare l'anniversario della strage fascista di Rifredi. Sì, non è una data scelta completamente a caso, anche il quartiere lo è, nel senso che la sede di Casa Pound è da qualche anno purtroppo proprio nella zona di San Jacopino. E quindi il corteo, per non dimenticare quello che hanno fatto anche solo pochi anni fa qui a Firenze, Gianluca Casseri, sì, che era di fatto un membro attivo, anche se poi se lo sono scagati dopo, certo, di Casa Pound Firenze. No, di Casa Pound Pistoia. Casa Pound Pistoia, giusto, è vero, Casa Pound Pistoia. E costui in Piazza Dalmazia sparava appunto uccidendo due senegalesi, e questo accadeva nel 2011. Ferendone altri tre, se non mi sbaglio. E un terzo. Ah, un altro, terzo. Sì. Erano praticamente due morti e un ferito quasi mortale, sì. Un ferito grave. E quindi niente, ci sarà questo corteo per far sapere a Casa Pound cosa pensiamo di loro e vi invitiamo a presenziare, insomma. Vorremmo per ricordargli cosa pensiamo di loro, vorremmo mandargli un roba tipo, gli si dovrebbe mandare una betoniera di vomito e merda probabilmente per ricordargli cosa pensiamo di loro. Per Natale, un regalo, sì. Regalo di Natale, sì. È una cosa un regalo carina. Di Natale fertilizzante, lo definirei. Bene, con queste ultime chiacchiere direi che possiamo concludere il sabato sera di Basement Records e dare appuntamento alla prossima puntata della trasmissione Fantasma. Tra due sempre lunedì. Sempre qui su Radio Wombat. Tra due sabati vedrete, probabilmente torneremo. Probabilmente, sì. Probabilmente, chi può dirlo? Ma anche se c'è vacanza? Chi può dirlo? Ah, chi può dirlo? Non lo sappiamo. Ah, è sempre tutto fantasma. Io cercavo un po' di regolarità nell'esistenza, capito? Punti fermi, invece niente. Compare, scompare, poi riappare. Giustamente, no? Vai, spottino di chiusura, spottino saluti. Spottino di chiusura e auguriamo a tutti un buon proseguimento di sabato sera. Ciao, ciao. Ciao. Da Radio Wombat e da Basement Records. Un buon sabato sera a tutti. All we hear is Radio Wombat. Radio Wombat. Radio Wombat.